giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchissi. 10 aprile 1991. È una bella sera di primavera. Il mare è calmo, la visibilità 5-6 miglia. Il Bobby Prince è un traghetto della Navarma che ogni giorno compie lo stesso percorso. Livorno-Olbia, Olbia-Livorno, Livorno-Olbia, Olbia-Livorno. Così per giorni che diventano settimane, mesi, anni. Stessa tratta, stesso mare. Un mulo che macina miglia marine. Solca le onde anche quando è brutto tempo. Porta chi va in vacanza e chi torna al suo paese. Tutti sono sempre partiti, tutti sono sempre tornati. Non è mai accaduto nulla di strano. Un incidente, pur minimo. Niente. Di quella sera di aprile scrive Enrico Federighini nel suo libro Moby Prince, un caso ancora aperto, edizione Paolina. Una leggera brezza salmastra mischiata ai vapori della ciminiera della nave penetra nelle narici e accarezza i volti dei pochi passeggeri rimasti sul ponte, esterno del traghetto, a osservare le luci della città. Sono le 22.03. La nave passeggeri molla gli ormeggi e si allontana scivolando sulle acque scure e oleose. Destinazione Olbia. I passeggeri vengono accolti a bordo dalle note musicali di una vecchia canzone, una canzone degli anni 60. Quando? Tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui. Forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderà, fino a quando, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché. Non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. E baciando mi dirai. Non ci lasceremo mai. E dentro la nave accadono le solite cose, c'è chi si prepara per la notte, chi chiacchiera, chi beve una birra al bar. Piccole cose banali rappresentano per 140 persone i loro ultimi istanti di vita. le 22:25. Il Moby Prince si infila nella fiancata della petroliera Agi Pavaruzzo. Guarda come un palazzo di 10 piani e lunga 280 metri. Il traghetto viene investito da 2.700 tonnellate di petrolio, fuoriuscito da una cisterna. Poi prende fuoco. Un rogo di vaste dimensioni disintegra uno dei gioielli della marineria civile italiana. 140 morti, un solo sopravvissuto. Dopo 4 giorni la petroliera brucia ancora e un'onda nera minaccia perfino l'isola di Gorgona. Quella a Livorno è la più grave tragedia che ha colpito la flotta italiana nel dopoguerra. La versione ufficiale parla di fitta nebbia, di un comandante distratto dalla partita di calcio, di una rotta sbagliata, ma non è la verità. Perché quella sera la nebbia non c'era. Il comandante Ugo Kessler non era distratto, non aveva scelto una rotta pericolosa. Il tratto di mare intorno a Livorno quella sera era assai affollato. Navi, imbarcazioni, vettoline andavano e venivano dentro e fuori il porto. Cosa stava accadendo? Lo scrittore Enrico Federighini. All'inizio si è voluta dare a questa tragedia, come dire, una visione di semplice incidente, mettendo così, fondato su 3 tasselli, la presenza di nebbia, una rotta incauta seguita dal traghetto, la tragica fatalità, che a leggere le carte, a metterle insieme, a leggerle tutte però, le perizie, le carte, le analisi magari venute a distanza di 6-7 anni dai fatti, vengono smentiti questi 3 tasselli, cioè viene fuori che quella sera non è vero, non c'era nebbia, la rotta del traghetto era tutt'altro che incauta, e non si è trattato sicuramente di una tragica fatalità. Quella sera il porto di Livorno era più simile a una darsena militarizzata che a un porto civile italiano. Erano presenti nel porto 6 navi militarizzate americane, di cui una ancorata, ormeggiata nel porto, e 5 ancorate in rada. E questa cosa ci viene detta però a distanza di 5 anni dai fatti da un ufficiale della Guardia di Finanza: una di queste navi, almeno una di queste navi, stava facendo trasbordo di materiale bellico, operazione pericolosissima lungo le rotte civili, operazione assolutamente non consentita dalle norme della stessa Capitaneria per evidenti ragioni, queste operazioni devono avvenire di giorno, non di notte. L'operazione veniva seguita da un elicottero militare non italiano, questo è emerso nel corso, perché se non si trattava di un elicottero militare italiano, non possiamo quindi che dedurre che si trattasse di uno degli elicotteri che sono distanti alla base di Camp Darby, che seguivano le operazioni di trasbordo che interessavano appunto una di queste navi militarizzate che caricavano e scaricavano materiale bellico di proprietà del governo degli Stati Uniti, di ritorno dall'operazione Desert Storm. E allora compiamo un passo indietro. È appena terminata la guerra del Golfo e quel giorno ci sono 5 navi militarizzate americane in rada a Livorno. Ce n'è una che sta trasbordando materiale bellico e armamento su altre ignote imbarcazioni. Un elicottero non identificato, certamente non italiano, controlla dall'alto l'operazione. E alcune bettoline riforniscono di carburante le navi. Ma qualcosa va storto. Un'esplosione, un incendio. Alcuni testimoni parlano di vampate e bagliori che si sviluppano prima dell'impatto del Moby Prince contro la petroliera. Il traghetto transita poco lontano. All'improvviso un'imbarcazione sconosciuta lo sperona, poi si allontana. Il Moby Prince vira in modo brusco. Il timone si blocca. L'impatto con l'Agi Pavaruzzo è ormai inevitabile. E proprio in quel momento inizia la parte più angosciante del giallo. I radar impazziscono, le comunicazioni radio vengono disturbate.

resta amareggiato Luchino Chessa, il figlio del capitano della nave morto nella strage. È una cosa indecente che dopo 6 anni e 4 di indagini e 2 di processo non ci sia nessun colpevole in una strage praticamente. Siamo di fronte a un, non so, a una giustizia che non ha funzionato. È assurdo che ci siano avuti 4 anni di indagini a rallentatore e che poi in processo, oltretutto monco con una serie di imputati di scarso rilievo, alla fine si chiuda senza nulla di fatto. Sdegno perché è assurdo che la giustizia lavori in questo modo. Amarezza perché siamo le solite, è l'ennesima strage che non ha portato ancora gli imputati davanti alla giustizia. Cioè, è assurdo che non ci siano colpevoli. Sembra quasi che sia, come al solito, un fattore naturale, un fattore casuale, così che ha portato un traghetto contro una petroliera, semplicemente la nebbia, semplicemente la velocità del traghetto, è assurdo, cioè, non sappiamo neanche spiegarci come si possa arrivare a conclusioni del genere. La sentenza sarà parzialmente riformata in appello. La terza sezione penale di Firenze dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Missioni su relitto, tracciati radar mai chiesti, altri con un'inspiegabile zona buia proprio sull'area della tragedia. Processi senza colpevoli, dichiarazioni contraddittorie di alcuni protagonisti. E la contraffazione dell'unico filmato amatoriale girato a bordo, scampato all'incendio. Quando arriverà nelle mani del magistrato, il video presenta una giunzione effettuata in modo non professionale. Il nastro, cioè, è stato tagliato e incollato con una parte di nastro vergine. Cosa si deve coprire? Il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno vi sono tracce della presenza di una nave, la October 2, la stessa sulla quale stava indagando da mesi la giornalista del TG3 Ilaria Alpi, assassinata a Mogadiscio insieme al cameraman Miran Krovatin. Coincidenza? Andiamo ancora a Enrico Fedeghini. Il registro dell'avvisatore marittimo segna la presenza della 21 October 2 al molo Magnale, in un molo non operativo del porto di Livorno. Fatto curioso perché un testimone dice che proprio quella sera la nave non era attraccata a quel molo, mentre invece risulta ferma lì per 2 mesi, ufficialmente, stando ai registri. Invece c'è una testimone, la moglie di un ufficiale della Capitaneria che ha una residenza di servizio all'interno del porto di Livorno, che dice chiaramente che la sera prima quell'imbarcazione, era l'unica imbarcazione di 70-80 metri, non c'era e al mattino dopo la vede. E poi, fatto curioso, il pilota di porto di Livorno si ricorda che proprio quella sera, il 10 aprile del 91, quel peschereccio, la 21 ottobre, fermo per riparazioni, chiede di fare bunkeraggio, cioè rifornimento di carburante, operazione sinceramente incomprensibile per una nave che deve stare ormeggiata, anzi a secco in cantiere per riparazioni. 14 anni dopo, per il rogo del Moby Prince, non vi è ancora giustizia. Poi accade ciò che abbiamo visto in tante, troppe inchieste italiane. Angelo Chessa, nella vicenda di Moby Prince, ha perso due persone. Passati molti anni, questa vicenda resta per lei e per i familiari delle vittime l'amaro in bocca? Rimane l'amaro in bocca perché in processo di primo grado, che era quello più importante, è stato un processo monco, inutile, nel senso che era preordinato l'inchiesta e anche gli imputati erano di secondo piano, non c'è stata mai nessuna volontà di vedere veramente cosa è successo quella notte, cosa succedeva nella rada di Livorno quella notte. Il depistaggio maggiore dell'inchiesta è andato da lì, dal non dover indagare cosa è successo nel posto quella notte. Ma non è alla fine, lì proprio il depistaggio è iniziato proprio da lì, dall'inizio, nel cercare di dividere i familiari, nel cercare di far apparire solo come un incidente banale, navale, anche se unico al mondo, ma è un incidente banale per cui i familiari, alcuna parte dei familiari sono stati risucchiati in questa corrente depistatoria, e però adesso a distanza di anni tutti ormai hanno capito, anche oltre agli atti processuali in cui si è scritto quello che succedeva quella notte, ma anche ultimamente al libro di Federighini e all'inchiesta di Minoli sulla RAI hanno fatto vedere veramente cosa c'era di marcio quella notte nella rada. Ma c'era sicuramente un traffico d'armi non autorizzato, come già da testimonianze di ufficiali della Guardia di Finanza, e questo ha implicato una copertura totale sulla tragedia.